Benissimo, allora iniziamo la nostra serata. Vi ringrazio di essere qui con noi. Ringrazio il Club So Optimist di Bolzano Bozzer, che è rappresentato questa sera dalla Presidente Emanuela Del Fabbro e con lei Paola Bassetti, ma in sala ci sono anche altre socie di questa associazione. Saluto in particolare Gloria Mazzini, che ci ha aiutato in questa organizzazione, e Bruna Maria Dalla Governi, che ci aiuta sempre in tante altre cose. Sempre. E comunque il nostro ospite, come sapete, è Francesca De Michelis, docente all'Università di Trento. È una bolzanina ad hoc, si è formata qui a Bolzano, ha fatto liceo classico, poi ha studiato a Trento fisica e da lì è iniziata la sua grande avventura nell'ambito scientifico, che poi è diventato anche un ambito biomedico. Adesso non vorrei entrare nei dettagli e sbagliare, però diciamo che dalla fisica è passata a un'analisi molto informatizzata, però nell'ambiente medico, ecco, detto in maniera molto stringata, ma poi mi affido a Francesca affinché possa entrare maggiormente nel dettaglio, nel racconto della sua grande professionalità. Mi fa molto piacere averla qui con noi, perché ho avuto l'occasione di conoscerla tanti anni fa, sempre in ambito universitario, per altre vie, e mi ha sempre colpito il suo sguardo, il suo carattere molto vivace, molto intelligente e lungimirante. Ecco, non voglio farle complimenti, ma è così, ed è una persona meravigliosa che sa spendersi con grande tenacia e grande intelligenza in settori davvero complicati. Quindi chi meglio di lei poteva questa sera aiutarci, e aiutare soprattutto il Soro Optimist, che ha aderito a questo progetto nazionale di SIFA STEM, che poi ci illustreranno le nostre ospiti, per dare uno slancio, un po' più di coraggio e aprire anche, cancellare certe vecchie abitudini, affinché anche le donne possano in maniera proattiva e diciamo anche con soddisfazione dare il proprio prezioso contributo in ambiti che forse ancora oggi sono un po' così per abitudine concepiti per l'altra parte del nostro cielo. Ecco, con questo io vi ringrazio ancora, cederò subito la parola alle nostre ospiti, ma vorrei anche ricordare altri due appuntamenti. Mercoledì 3 aprile, qui in questa sala delle 18 alle 20, ci sarà il terzo film dedicato alla dipendenza affettiva, che stiamo portando avanti insieme a delle psicologhe, in particolare alla dottoressa Franchina e all'ufficio famiglia, donna e gioventù del comune di Bolzano. Sono appuntamenti a cui teniamo molto, perché è un impegno civile che ci siamo presi anche come biblioteca. Abbiamo sempre preparato anche delle bibliografie in tema, legate a questo tema. E infine venerdì 5 aprile avremo un altro ospite, un poeta, questa volta un poeta uomo, quindi insomma cambiamo un po' i ruoli, e sarà con noi Lino Pasquale Cacciapaglia, accompagnato da Francesco Marchioro. Un bel appuntamento, saremo in questa sala sempre alle ore 18. La biblioteca è aperta tutti i giorni, siamo al piano terra, abbiamo tantissimi libri, sempre legati anche ai temi che portiamo poi al pubblico durante le nostre serate. E infine ogni giovedì c'è BiblioWeb che vi aspetta dalle 16 alle 17 con il nostro bibliotecario Fabio. Grazie a voi e buona serata. Grazie. Grazie. Molte grazie. Beh, Valeria, ringraziamo, siamo noi Soro Optimist che ringraziamo la Biblioteca Claudio Busta, che ci ha ospitato in questo comune progetto. Noi siamo Soro Optimist, è un'associazione che ormai credo tutti conoscano, che si occupa e si preoccupa della condizione della donna nel mondo. Ovviamente ogni area ha le sue priorità, diciamo che in altre aree del mondo le priorità sono diverse, ma quella che ci occupa questa sera è proprio questo approccio così faticoso per una parte delle donne alle materie scientifiche, questo accostarsi con grande riluttanza, con diffidenza, o comunque ci dicono le statistiche, con difficoltà alle materie scientifiche. E quindi questa sera chi meglio della professoressa De Michelis ci può parlare delle eventuali della sua esperienza, di come ci si può invece accostare, di quali sono gli aspetti che ostacolano questo questa vicinanza, e quali sono gli stereotipi che eventualmente intervengono e condizionano le scelte delle donne. E perché voglio dire, difficoltà non ce ne sono, no? I risultati poi quando le donne ci si mettono, ecco, anzi sono estremamente competitive, i risultati mi pare che siano sotto gli occhi di tutti. Ma il perché questa fatica? L'associazione SoroOptimist, ecco, forse non ho detto, siamo presenti in tutto il mondo. In Italia con 155 piccoli club, uno dei quali è questo di Bolzano, siamo circa 6.000 soci in Italia, 130.000 nel mondo, e appunto questo aspetto delle STEM è diventato un argomento che per il biennio presente ci sta occupando a tutti i livelli, e per Bolzano appunto abbiamo pensato di organizzare questa serata con una degnissima rappresentante delle donne scienziate. Grazie, allora ascoltiamo la dottoressa. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio la presidentessa, la presidente, ringrazio Valeria ovviamente per aver fatto il mio nome, e dico subito che non sono abituata a fare questo tipo di interventi, sono molto abituata a fare interventi strettamente scientifici, un po' perché sono timida e quindi cerco di non parlare mai in pubblico, così a ruota, un po' a ruota libera, e gli argomenti che ho sempre cercato di evitare perché forse avevo l'idea che finché non avessi raggiunto certi obiettivi non sarebbe stato il caso di non dico lamentarmi, ma fare puntualizzazioni di qualcosa che è stato particolarmente difficile o facile, o insomma forse non volevo perdere tempo, diciamo, finché non fosse arrivata a un certo punto. E ora che ho 46 anni e ho fatto una serie di cose, mi sentite? Ecco, così meglio? Sì. Ecco. E inizio ad avere domande di questo tipo da più persone, ho pensato che fosse il momento giusto per iniziare a raccontare un po' la mia esperienza e anche inquadrarla in quello che sono i numeri e le statistiche, perché ovviamente, come è stato detto, per fortuna da tanti anni ora ci sono studi e attenzione verso questo direi problema, o comunque questa evidenza che c'è nella nostra società, dove le donne in carriera in generale sono meno degli uomini, e dove le donne nella scienza sono sicuramente in numero minore, soprattutto dopo un certo livello diciamo di raggiungimento di obiettivi. Quindi sono qua e ho preparato alcune slide con dei numeri, ci sono alcune scritte in inglese perché le ho scaricate ieri sera, ma quello che conta sono i grafici, che è molto, sono molto più adatti, diciamo, per vedere le differenze. E poi vi racconto un po' di me, ma se nel frattempo volete fermarmi, bloccarmi, vogliamo commentare, forse più se siamo interattivi meglio è. Uno dei rapporti più recenti che ho trovato è quello che sicuramente voi che vi occupate tramite l'associazione di cui fate parte, sono i dati dell'OCSE del 2017, che riportano uno studio il cui titolo è Il perseguimento dell'uguaglianza di genere, una battaglia in salita. E all'interno di questo studio, che è molto ampio, che copre molti settori, non solo quello STEM, ovviamente riporta dati, quindi informazioni sulle quali basarsi, al di là della percezione, dell'intuizione, del rifiuto, proprio dati, come si fa nella scienza, di quella che è la situazione in un numero di paesi che credo tocchi il 70. Prima di guardare i numeri dell'OCSE brevemente, ho riportato questi grafici che sono stati pubblicati in Nature nel 2013. Questo articolo ha fatto grande risonanza nell'ambito scientifico, soprattutto forse con più attenzione da parte delle donne. Nature è una rivista scientifica che, come sapete, ha una copertura molto ampia, copre tutti i tipi di scienze e riporta risultati innovativi da un punto di vista tecnologico, della ricerca di base, tutto quello che è davvero un grande impatto nella vita e nella natura. E all'interno di Nature, in un numero del 2013, hanno fatto vedere questi dati in 2-3 pagine. Questo è un articolo scritto da Helen Shen, che lavora all'NIH, cioè l'istituto per la salute americano. Allora, i primi grafici, nelle prossime quattro slide il colore scuro, cioè il rosso, riguarda le donne, il colore giallo riguarda gli uomini. E questa prima slide riporta qual è l'incidenza delle donne che hanno conseguito un dottorato. Il dottorato è un livello, diciamo, di studio dopo il master, è un, in genere un programma di studio che dura dai 3 ai 5 anni, che è focalizzato sullo sviluppo della capacità di fare ricerca e ovviamente abbraccia tutti gli ambiti, incluse le scienze. E per scienze intendo in questo setting, diciamo, chiaramente fisica, matematica, ingegneria, medicina, informatica e biotecnologie. Se guardate nel grafico, seguendo qui il mio mouse, tra il 2000 e il 2009 la percentuale di donne che ha perseguito e ha raggiunto un dottorato in ambito scientifico e ingegneria, quindi diciamo scientifico in generale, è decisamente aumentato, e vedete come arriva poco sotto il 50%. Se poi lo guardiamo suddiviso per quanto riguarda il 2006 in alcuni stati, tra cui l'Italia, vedete che la posizione dell'Italia non è per niente male. Questo dice che di tutti i dottorati ricevuti in ambito scientifico in Italia, il 48%, anzi il 52% è delle donne. Quello che però succede è che finito il dottorato, molte persone, uomini e donne, decidono di allontanarsi dall'ambito della carriera accademica, quindi della ricerca in generale, anche in ambito di società o di aziende. E il motivo principale ha a che fare con l'idea o di avere figli o l'avere figli o pensare di avere figli. E vedete come cambia tra uomini e donne in proporzione. Per esempio qui stiamo guardando la percentuale di uomini che hanno deciso di non continuare il loro ambito, il loro lavoro in ricerca, perché hanno avuto dei bambini, 41% le donne e il 20% gli uomini. Questo cosa suggerisce? Suggerisce che, almeno così la cosa più intuitiva, è che il supporto che c'è in vari paesi nell'aiutare le donne che hanno avuto dei bambini a riprendere velocemente il proprio percorso di studi non è sicuramente ottimale, perché sennò probabilmente la percentuale non sarebbe così alta. Quindi non è direttamente una scelta del singolo, ma è una scelta del singolo all'interno dell'organizzazione e della società nella quale si trovano. Questo è un bellissimo dato, secondo me, qui di nuovo numeri, però quello che dobbiamo confrontare è questa colonna con l'ultima colonna, dove vediamo qual è la capacità delle donne di ottenere un lavoro in ambito accademico una volta che hanno deciso di provarci. E vedete che le percentuali, sia per biologia che per chimica che per fisica, vanno dal 26, 18, 12% al 34, 29, 20%. E queste sono percentuali relative agli uomini. Quindi vuol dire che se una donna ci crede, trova le condizioni per poterlo fare e decide di provare ad avere, perché pensa di avere la capacità, un lavoro di buon livello in ambito di ricerca, in una di queste tre discipline, ha più probabilità di ottenerlo di un uomo. Di nuovo, interpretazione che magari è così un po' superficiale, però probabilmente non del tutto, è che quando una donna prova a fare una cosa è perché probabilmente è più preparata. E per me questo vuol dire che, o nella mia esperienza, e di nuovo qui incrocio un po' quello che io penso da quelli che sono i dati, però ho visto tante occasioni in cui un uomo in ambito scientifico, e quindi parlo solo della mia esperienza diretta, si butta un po' di più, mentre una donna prima di esporsi o studia di più o è comunque più preparata. E questo secondo me è una parte dell'interpretazione di questo dato. Quindi una donna che finisce il dottorato in una di queste tre discipline e decide di andare avanti è in genere preparata in maniera sufficientemente forte per ottenere al primo giro un lavoro che vuole ottenere. Tuttavia, quando poi si pensa a, a lungo termine, le cose, vedremo poi, cambiano. La tenure track è quello, è l'equivalente nel nostro, la tenure track nel sistema, diciamo, americano o inglese, è quello che per noi equivale ad avere una posizione di professore in ambito universitario, quindi una posizione tendenzialmente a lungo termine, se si raggiungono certi obiettivi. E questo grafico ci indica che le donne ottengono più facilmente una posizione tenure track di nuovo una volta che sono lì, però sono tutte posizioni a un livello un pochettino, diciamo, in percentuale inferiore rispetto agli uomini. E questo si vede in questo grafico. Quindi le donne che ricevono dottorato, questo è nelle università europee nel 2006, sono il 36% rispetto agli uomini, il 33% di posizioni da professore, diciamo a livello junior, è del 33% delle donne, quando invece guardiamo a professori che in Italia si chiamano associati ordinari, diciamo, e la percentuale scende all'11%. Quindi è abbastanza impressionante, tuttavia secondo me non è passato ancora abbastanza tempo dal momento in cui più donne hanno avuto accesso, hanno deciso di portare avanti la loro carriera, e il momento in cui sono stati raccolti questi dati. Perché comunque per avere una posizione senior, diciamo, bisogna passare un certo numero di esperienze, e questo equivale anche a un certo numero di anni, per cui mi immagino che se diamo un altro 10 anni di tempo a questi numeri, questa percentuale salirà. Non drammaticamente, però un po' salirà. Un argomento dove c'è un grande gap è quello della ricompensa, sia a livello personale che nella quantità di soldi che si ottengono quando si richiedono finanziamenti. Qui stiamo comparando i dati raccolti nel 2002 con quelli del 2012. Di nuovo abbiamo i soliti due colori, e questa prima riga ci dice qual è la proporzione di finanziamenti che vanno agli uomini rispetto alle donne. Nel 2002 era il 24%, nel 2012 il 30%, quindi un buon incremento, 6 punti percentuali in 6 anni, non è male. Però se guardiamo la quantità o il valore medio, diciamo, in termini di dollari che vengono riconosciuti o vengono forse richiesti dagli uomini e dalle donne, la quantità di finanziamenti al femminile, diciamo, è più bassa, $421,000 rispetto a $507,000. Sui grandi numeri queste differenze sono significative. Qui questi dati, come li ho letti io, non distinguono se questa differenza, diciamo, numerica dipende dal fatto che una donna che applica per un progetto scientifico decide di chiedere un po' meno soldi, oppure se il budget viene tagliato. Questo non è riportato, ovviamente fa una grande differenza, no? Io tendo a dire, forse, però è sempre su come sono io e su come sono le persone intorno a me, che magari siamo un po' più conservative nel modo in cui proiettiamo, diciamo, quello che vogliamo fare. Però non è necessariamente un male, anche perché si chiedono troppi soldi, poi non si spendono, la volta dopo non te li danno, per cui ci può stare. Per quanto riguarda il salario, questa è una differenza secondo me che cambia da paese a paese, anche per come sono le regole, diciamo, universitarie. In questo caso stiamo guardando la differenza di salario lordo medio negli Stati Uniti tra uomini e donne nei diversi settori. Vabbè, intanto vediamo ovviamente che alcuni settori sono più pagati di altri per lo stesso livello, diciamo, di carriera, e questo è vero per esempio per la fisica e l'astronomia, e vediamo che la differenza è comunque abbastanza elevata attraverso tutte le discipline che sono state analizzate. In questi paesi vale il principio di contrattare nel senso buono del termine, cioè quando si va a fare un colloquio di lavoro per una posizione si parla del ruolo, della conoscenza, della visione, a 3 anni, 5 anni, 10 anni, contestualizzazione del proprio lavoro, e poi a un certo punto si arriva a parlare del salario. E le donne in genere chiedono di meno, o le donne in genere, questo di nuovo sull'esperienza personale, aspettano di ricevere un'offerta e pensano che l'offerta sia quella che, che loro meritano, e quindi dicono: mi offriranno, sono persone serie, mi offriranno quello che io mi merito, va bene così. Poi però ti accorgi che il tuo collega, stessa età, stessa esperienza, stesse pubblicazioni, stesso tutto, ha un salario del 15% più alto. E alla fine quello che abbiamo constatato, io parlo di queste cose con le mie amiche, amiche che fanno il mio stesso lavoro, no? Non da tanto, ma da un paio di anni ne parliamo, anche perché poi adesso quando andiamo ai convegni scientifici c'è spesso una sessione di mentoring, si chiama, quindi riportare la nostra esperienza alle persone più giovani, in genere donne più giovani, che ci chiedono come si fa a contrattare, come si fa a scrivere il CV in maniera corretta. E alla fine la risposta che emerge sempre è che basta chiedere, e bisogna saper chiedere, perché il valore che noi abbiamo lo sappiamo noi meglio degli altri, e non c'è niente di male a chiedere. E quando mi sono accorta che il mio collega guadagnava il 15% in più, sono andata, ho chiesto, ho detto quello che avevo fatto, quello che stavo facendo, quello che sicuramente sarei riuscita a fare, ho chiesto l'aumento e me l'hanno dato così. Allora, questo ovviamente in Italia non vale, no? Cioè non vale nel pubblico perché c'è poco da contrattare, però nelle aziende vale, in Italia nelle aziende è così. E noi donne non siamo, almeno insomma, penso che ci sia più riluttanza a autovalorizzarsi e a dire quello che sappiamo di noi, in tutti i termini, di capacità ma anche di valore, proprio valore economico in questo caso. Quindi c'è spazio forse per far sì che le persone ci offrano lo stesso livello di stipendio, ma c'è anche spazio per imparare a chiedere quello che di fatto ci meritiamo. Il divario retributivo di genere, e questi sono i dati OCSE, in Italia in percentuale non sembra male, vedete il taglio qua, 5,6% rispetto al 14,3% della media dei paesi OCSE. Ora qua secondo me un po' il bias è che tanti di questi, diciamo, tante posizioni in Italia hanno uno stipendio predeterminato, per cui per esempio in università, che è l'ambito che io conosco, sarebbe impossibile fare una discriminazione, no? A parità di livello di posizione. Nelle aziende di nuovo non è così, nelle aziende di famiglia anche non è così, penso, insomma, in tutto quello che non è diciamo statale. All'interno dell'università secondo me di nuovo ci sono dei ruoli che possono portare sicuramente ad avanzamenti di carriera più rapidi, che quindi poi elevano anche lo stipendio, però in generale questa variabile non esiste. Guardate l'India, guardate questi paesi, è impressionante, fa venire... Gli Stati Uniti, ecco sì, qui contrattazione. In Italia il 38% dei laureati in materie STEM è donna, e siamo più alti di nuovo rispetto alla media dei paesi, quindi non male. Però ricordate quel dato che abbiamo menzionato prima, dove le donne si laureano, poi una percentuale minore fa il dottorato, poi fatto il dottorato una percentuale minore va avanti, quello resta, ed è lì dove bisogna lavorare, però bisogna lavorare molti anni prima. E magari questo è un po' un argomento che possiamo affrontare insieme, ma se qualcuno poi vuole chiedere o dire quello che pensa, secondo me è più costruttivo di ascoltare me parlare. Scusa Francesca, perché è anche una perdita economica, cioè tutto tutte queste donne che si laureano, si dottorano e poi si fermano, lo Stato ha anche investito, no? Certo. E le competenze e conoscenza che o vanno all'estero, sì, e quindi le perdi in una maniera o le perdi in un'altra, svalutandole, se si parla di Secondo me le percentuali di persone che vanno all'estero, probabilmente il dato non lo conosco, ma mi immagino che forse le percentuali siano equilibrate, no? Di chi va all'estero, perché andare all'estero, magari questa è anche una cosa della quale possiamo parlare, è una scelta a prescindere dal genere. Forse in certi paesi del nord c'è più aiuto per la, diciamo, nel periodo della maternità, quindi si agevola la vita, però invece per quanto riguarda la perdita di conoscenze solide che sono state create con finanziamenti statali e anche delle famiglie, quella è una perdita grossa, al di là del fatto che quando si studia poi si studia anche per accrescere la propria capacità intellettiva, per cui quella è una ricchezza che resta, però sì, è vero, c'è una perdita proprio economica. C'è un'incoerenza, perché lo Stato dovrebbe continuare ad investire anche nel sociale per permettere alle donne poi di fare di proseguire nel loro percorso. E questi sono dati più generali, nel senso che non sono relativi all'ambito STEM, però fanno vedere come siano diverse le percentuali, per esempio di tasso di lavoro autonomo negli ultimi anni tra uomini e donne in vari paesi. E vedete che la percentuale delle donne, che è, diciamo, il livello della barra rispetto a questo quadrato, è abbastanza alto ed è più o meno costante, tranne che nel Messico, tra i paesi che sono stati riportati. E il divario di genere nell'occupazione, questo è tra uomini e donne tra i 15 e i 64 anni, indipendentemente dal grado di studio, è comunque abbastanza alto. In particolare, leggendo in questi giorni, ho visto i dati che dicono che più basso il livello di istruzione di una donna, più difficile il riferimento nel mondo del lavoro retribuito dopo aver avuto dei bambini. Questo questo è un dato drammatico, secondo me, no? Perché se non si riesce a rientrare nel lavoro retribuito dopo aver fatto i figli, poi più passano gli anni, peggio è, perché la conoscenza comunque diminuisce, l'abitudine delle persone a lavorare in un contesto che non è quello corretto aumenta, per cui una persona si abitua e non si rende neanche conto che c'è qualcosa di malsano. Poi tutto questo, ovviamente, e forse dovevo dirlo prima, esula dalle scelte consapevoli di una donna che decide, avendo studiato o non avendo studiato materie scientifiche, qualsiasi materia, di restare a casa e fare qualcos'altro. Perché stare a casa e fare qualcos'altro è un mondo con, secondo me, c'è un range ampissimo, no? Una persona può decidere di non lavorare fuori casa e allevare i figli oppure no, ma avere interessi, essere intellettualmente frizzante, attiva, dare buon esempio, essere di buon esempio, insomma, è anche quella un'attività che chiaramente va benissimo e che fa bene anche alla società, fa bene a tutti, però insomma, questi sono i dati. Riepilogo degli indicatori, sempre del rapporto OCSE 2016, che ci fa vedere l'Italia rispetto alla media e poi i paesi con le migliori performance del rapporto donna-uomo e i peggiori, riportano appunto questo dato del 38,4% e un dato che io mi sarei aspettato più basso e che tutto sommato non è male, dove il 26% dei manager è donna. Retributivo, divario retributivo di genere l'abbiamo già visto, e poi questo dato qui sulla percentuale delle donne tra gli eletti in Parlamento, 31% in Italia verso il 28,7% media OCSE, non so neanche come pensarlo, perché comunque non so. Prego? C'è la quota rosa, ma non so da quando la quota rosa è stata inserita, e questi sono i dati del 2016 e prima, non so bene come funzioni, quindi non lo so. Quate rosa, media ocse un quarto, media ocse 28,7%, sì, un po' più di un quarto. Sì. Io non lo so cosa penso delle quote rosa. Io le quote rosa in università le trovo brutte, e forse le concepisco per un periodo di tempo molto limitato, per aiutare a creare dei modelli per le persone più giovani, per accelerare il riempimento del divario, ma poi devono rompersi. Quindi non conosco il piano perché questo avvenga, però in generale non diciamo è una che bella chi cosa. Era contrario alle quote rosa 30 anni fa, quando se ne parlava, ha rivisto la propria posizione, perché nel frattempo non è cambiato nulla. E quindi una volta constatato che i tempi sono comunque troppo lunghi, come accennavi, forse una forzatura, una spinta, un'impostazione insomma d'ufficio, che poi può diventare cambiare e far ricorso al merito e al, però se aspettiamo i tempi così sì, diventano i cambiamenti sono veramente troppo lunghi. Un po' come il discorso di prima che diceva Francesca della contrattazione, no? Allora noi non siamo ancora abituati a pensare che quando devi cercare qualcuno per inserire in un consiglio di amministrazione, se faccio un esempio, che tu possa prendere in considerazione una donna, la prima lista di nomi che viene spontaneamente in mente a qualcuno sarà sicuramente 9 su 10 uomini. Adesso non nulla è in contrario, però è una questione proprio di pigrizia culturale. Probabilmente le quote rosa hanno solo questo di valore, però è un rimedio probabilmente preso a malincuore, ma necessario proprio per togliere questa abitudine, questa cattiva abitudine a non pensare anche in un'altra maniera o a pensare che si possa entrambe le linee renderle partecipi. Però è così, insomma, ecco, io mi ricordo che noi fino a poco tempo fa, se non c'era le quote rosa, ci venivano proposti sempre i nomi maschili negli organi, diciamo, ed era difficile, no? Dovevi invece avere questo strumento per cominciare a pensare anche in un'altra maniera. In certi paesi del nord hanno introdotto, per esempio, la maternità e la paternità, hanno suddiviso il periodo della maternità, hanno imposto metà in carico alla mamma e metà in carico al papà, proprio per abituare questo cambio culturale, magari un po' forzatamente, che poi diventa un automatismo, comunque entra poi nella cultura e nelle abitudini, no? Se aspetti che questo avvenga per motu proprio così, e passano altri 100 anni e non succede nulla, no? L'hanno proprio imposto. In percentuale quanto incide l'educazione, l'estrazione familiare? È possibile fare un calcolo medio? Nel senso che i bambini educati in un certo modo, forse oggi questo è più frequente che non quando noi eravamo piccole, no? E se saranno in futuro donne che avranno appunto più forza, più potere, più autostima, più potere contrattuale, lo vedremo, però insomma penso che l'educazione in famiglia, è quello che dicevi tu prima, una madre rinuncia, però se fa un certo lavoro questo ha una ricaduta poi sulla società a favore di tutti. Io penso sia inevitabile, no? Che il miglioramento avvenga. Non conosco le proiezioni, ma un po' l'idea che mi sono fatta leggendo e pensando è che la famiglia chiaramente conta tantissimo, il modo in cui i genitori o i primi vicini o i fratelli si comportano conta tantissimo, ma è l'educazione nelle scuole primarie che ha un ruolo fondamentale. In primis nel far sì che gli insegnanti riconoscano i bias di genere, che spesso sono anche inconsci, nelle persone bilanciate, sensate, comunque ci sono dei bias di genere totalmente inconsci, e educare gli insegnanti a riconoscerli e a saperli affrontare, evitarli, è fondamentale. E per far sì che si educhino in questa maniera gli insegnanti, anche lì ci vuole del tempo, no? Perché ora sicuramente sono iniziative di cui ho letto in maniera un po' sparsa, però non bastano, e sono venuti alla luce fatti dei riguardanti libri di testo, ora non ricordo bene l'esempio, però insomma, se il libro di testo è così, per quanto un insegnante possa essere attento, è difficile, quindi ci vorranno probabilmente X anni perché queste cose cambino, sì. Il SeroOptimist ha a livello nazionale messo a punto un'app per le scuole elementari che si chiama Maggie Hack e che è una sorta di gioco interattivo didattico che si sta ancora presentando, diciamo, un po' all'inizio alle scuole elementari, proprio su questo discorso che dici tu, l'insegnante e l'alunno, insomma, proprio per indirizzare verso le materie scientifiche, che non sono ovviamente migliori di quelle umanistiche, ma per diversificare proprio anche il talento. Si può intervenire? Sì, certo. Buonasera. Sì. Io sono un docente di comunicazione e tra i miei corsi tratto anche la comunicazione al maschile e al femminile. E faccio anche dei corsi su empowerment femminile, partendo proprio da quello che diceva lei prima, che è un dato purtroppo delle ricerche, degli studi, e cioè che le donne si sottovalutano. Tutta una serie di esempi concreti dimostrano effettivamente che l'uomo, come ha detto anche lei prima, insomma, l'uomo quando va a fare un esame, quando deve sottoporsi a un'impresa, cioè, l'uomo proprio non occorre che si senta preparato al 100%, basta che sia preparato al 50% e si butta. La donna invece, se non è preparata almeno all'80%, non si butta per niente. E poi soprattutto, come giustamente ha detto, la donna non chiede. Questo appunto faccio anche io quei corsi sulla assertività, la capacità di negoziare, ma soprattutto di farsi valere, un po' come ha fatto lei, che lei ha messo assertività è proprio questa, no? Non tanto chiedere perché sono donna, ma chiedere perché ho determinati requisiti. E quindi indubbiamente c'è questo dato, insomma, che bisogna però darsi anche molto da fare, soprattutto con le associazioni femminili, perché quello che vedo anche in questi giorni sull'Alto Adige sono state prese di posizione di diversi istituti di formazione, istituzioni pubbliche, eccetera, eccetera, paritetiche, che denunciano questa situazione. Ma poi non fanno niente, non fanno la formazione. Io per primo dico, anche come docente di comunicazione, il mondo va al femminile, non c'è niente da fare, il mondo va al femminile. Se prendiamo anche gli aspetti che tratto io, la leadership oggi è maschile e femminile insieme, altrimenti non è leadership. Intendiamo una leadership positiva, naturalmente, non prendiamo certi esempi oggi, certo, politici, no? Come si dirige una riunione? Oggi una riunione si dirige al maschile e al femminile, cioè non centrate sul risultato, ma anche sul clima, sulle relazioni, sulle emozioni, sui sentimenti, eccetera. E così, quindi il mondo va al femminile, però non va al femminile spontaneamente, come avete detto anche voi, bisogna darsi da fare. Sì. Le quote rosa sono uno strumento. Per quando io nei miei corsi sul conflitto prendo le quote rosa come un tema, pensate, viscerale, cioè faccio una simulazione di conflitto, tre a favore, tre contro, trasversalmente, perché ci sono donne visceralmente contro le quote rosa e viceversa, insomma. Ok? Ma quello che viene fuori, i pregiudizi che vengono fuori, è impressionante. Anche in queste piccole simulazioni, certo. Questo denota che veramente, come avete detto voi, insomma, c'è ancora, soprattutto all'interno del mondo maschile, c'è molto. dell'attrezza culturale, c'è un atteggiamento veramente assolutamente che bisogna far maturare. Sì. Io no, volevo solo dire a proposito di leadership, il Sor Optimist, tutti gli anni ogni club d'Italia, quindi 155 club, selezionano una candidata, quindi 155 candidate che possono partecipare ad un corso presso la SLA Bocconi di Milano per 3 giornate di leadership al femminile. E tutte ritornano da questa esperienza, poi ci relazionano entusiaste di quelle chiavi che vengono consegnate loro per poter veramente affrontare quello di cui parlava lei. La leadership al femminile è un grosso ostacolo, sì, è un grosso problema. Ci sono, ecco, nei miei corsi di empowerment al femminile mostro alle donne che hanno delle qualità. Non come donne, io parlo di maschile, al maschile e al femminile, non le donne e gli uomini, sì, proprio perché la generalizzazione sarebbe un grave errore, no? Però spesso le donne non si rendono conto di avere delle qualità tipicamente al femminile che sono da valorizzare, specialmente in certi ambiti, appunto, per esempio comunicativi, eccetera, eccetera, insomma, no? Ed è incredibile come a volte pensano che quelle che sono delle loro qualità, se per esempio io faccio delle simulazioni senza rete, per esempio faccio vedere un film di 15 minuti e poi lo faccio raccontare da un gruppo di donne e da un gruppo di uomini. Guardate, sono 10 anni che faccio questi corsi, non sono mai stato smentito. Senza rete, basta la prima frase fa vedere come uomini e donne interpretano il mondo in modo differente. Ma questo, mi scusi, posso fare un commento? Questo, intanto grazie per l'intervento, sono molto d'accordo nel dire che l'esistenza di questi corsi sia utilissima. I corsi di leadership però vanno fatti per gli uomini o al femminile, o insomma, come dice lei, comunque lasciatemi passare, per uomini e per donne, perché essere leader non è facile, no? A prescindere. Ma siccome non esistono studi genetici o scientifici che provano che c'è un divario nel nostro DNA, esatto, il problema è la società. Quindi, se è vero che servono i corsi di leadership e magari in questo momento servono più corsi di come si dice in italiano, essere assertivi, ecco, assertività, più per le donne che per gli uomini, perché gli uomini l'hanno respirato con l'aria da che sono nati. Non hai detto questo? No, ma lo dico io, però lo dico io perché è così, no? Perché gli uomini tendono, grazie alla società, tendono ad essere più assertivi delle donne, secondo me. Più positivi, però, non assertivi. Prego? Più impositivi, non assertivi. Assertività è un'altra cosa. Okay. Assertività è fare in modo che le proprie idee avanzino, sì, ma non con aggressività e soprattutto non offendendo gli altri, ma non sminuendo gli altri. Quello, sì, non parlavo di quello è un altro livello. Ma no? Su questo, appunto, come ha detto lei, uomini e donne devono tutti imparare. Mm. Non ci sono dati scientifici che dimostrano che abbiamo delle differenze che io chiamerei caratteriali adesso, che ci vengono dalla società, che invece sono inserite nel nostro DNA. Quindi è la società che ci crea così. E se la società ha creato anche delle cose buone così facendo, perché secondo me la sensibilità che io possa avere e molti dei miei colleghi uomini non hanno, io sono contenta di avere, vorrei insegnargliela piuttosto che perderla. E secondo me bisognerebbe arrivare al punto in cui da che si è bambini si impara che ci sono stessi diritti e stessi doveri, da sempre, che si hanno le stesse opportunità e che le aspettative che si hanno, che i genitori o chi ci educa ha, è indipendentemente dal nostro genere. È lì che bisogna agire per colmare davvero le differenze tra 20 anni da oggi. Bisogna agire dappertutto, sempre. Nel frattempo, ecco, e nel frattempo. Per i bambini, per gli adulti, certo, per gli anziani, sempre, a tutto spiano. Assolutamente, non sì, bisogna aspettare di certo, educare tutte le generazioni. relazione in modo. Sì, sì, sì. L'impegno deve essere continuo. Perché è anche un po' comodo, no? È anche uno stereotipo, secondo me, quello di dire la donna è brava ed è efficiente, no? E quindi ci si aspetta sempre una certa efficienza, una certa così collaborazione, mentre l'uomo viene perdonata l'efficienza perché ha questa creatività, questa visionarietà che la donna, dalla donna non ci si aspetta, e se anche ce l'ha, è meglio che non la esplichi e non viene valorizzata. Questo fa parte di nuovo di uno stereotipo che c'è ancora, no? Ecco, le donne devono essere sensibili, l'uomo no, e viceversa, insomma, perché anche io voglio essere sensibile, però poi non deve essere la mia unica caratteristica, e vorrei invece essere visionaria, logica, cioè, e vorrei che questo venisse riconosciuto appunto senza questa differenza di genere a tutte le persone, non questi stereotipi, diciamo, che a volte ci... Ma come diceva il professore, ci sono delle qualità proprio peculiari che diventano quasi degli handicap, vissute quasi come un handicap invece che con il valore aggiunto. Non ho potuto finire il discorso. Prego. Sul filmato, come dicevo che sì. La prima frase, sempre nel senso che gli uomini hanno un'impostazione più sintetica e strutturata, e le donne hanno tendenzialmente, quindi diciamo comunicazione maschile e comunicazione femminile, ma le donne e gli uomini. Ma le donne tendenzialmente hanno un modo di riportare, anche quando si parla in pubblico, più narrativo. Le donne raccontano la storia, quando vedono il filmato raccontano quello che è successo e si fermano a riflettere su quello che è successo. Gli uomini non raccontano. Gli uomini vanno subito a fare una sintesi. Ovviamente, appunto, questo non vuol dire che gli uni sono bravi, quegli altri non sono bravi. Oggi noi abbiamo bisogno di fare l'uno e anche l'altro, di integrarci. Ma quello che è strano è che, appunto, le donne pensano gli uomini sanno parlare bene. Guarda che loro, quando parlano in pubblico, sono sintetici, no? Questa però è una credenza che non mi appartiene, guardi. No, ma per lei ovviamente, no? Per lei ovviamente. Ma neanche nel campo scientifico questa cosa non è vera. Ma certo, però nel campo sociale, guardi, io ho occupato posizioni apicali in campo sociale, nelle istituzioni pubbliche, eccetera, e garantisco che purtroppo è un po' così, nel senso che le donne pensano che questa capacità narrativa sia una defiance, e invece è una qualità, che poi si aggiunga anche un elemento di strutturalità più al maschile, ma lo stesso gli uomini, sentire un uomo parlare è di un grigiore tremendo, insomma. Il discorso maschile è di un grigiore tremendo, insomma, per me, oggi ovviamente, no? Quindi le cose vanno via. Quello che voglio dire appunto è questo, che la donna deve rendersi conto ancora di più delle qualità anche specifiche che ha. Ma bisogna soprattutto impegnarsi. Penso che la nostra relatrice sia ben consapevole, no? Anche di riuscire ad affrontare un pubblico di grande livello, come quando va anche a contrattare con l'università o con i centri di ricerca per questi progetti. No? Adesso l'ultimo che sta portando avanti è un progetto da parecchi milioni di euro ed è un progetto all'avanguardia per il cancro, tra l'altro la prostata, quindi sa benissimo andare avanti ed essere, colpire il bersaglio, quindi secondo me non è proprio maschio e femmina, le donne raccontano, gli uomini vanno, cioè vorrei che forse, e il mio augurio è che un domani si salti oltre, si faccia questo saltino oltre, Francesca lo dimostra che è possibile, che non c'è questa differenza nella comunicazione, ma che invece si può raggiungere degli obiettivi con una determinazione senza poi derogare a quella che è la propria caratteristica, insomma. Anche perché poi ci sono caratteristiche, secondo me, nel lavoro, e ci sono caratteristiche da utilizzare fuori dal lavoro. Nel sociale, cioè uno può essere la stessa identica persona al lavoro, fuori dal lavoro, o può decidere di avere di concentrarsi in un certo modo, in un contesto piuttosto che in un altro, e secondo me va benissimo. E secondo me funziona anche ed è anche divertente, perché si può essere più creativi, diciamo. Se siete d'accordo, io avrei due o tre slide, sì, forse cinque, sì, su quello che faccio, ma proprio velocissima. Sì, certo. Io ho un gruppo di ricerca all'Università di Trento, e in parte anche in altre università e fuori dall'Italia. Ci occupiamo di studiare biomarcatori per progressione tumorale e identificare nuovi target terapeutici. L'ambito è quello che viene riferito come ambito di medicina di precisione, oncologia di precisione, cioè l'idea di ottimizzare la scelta farmacologica sulla base dell'individuo, sia della malattia che della genetica dell'individuo, quindi quello che ereditiamo dai genitori. La cosa bellissima del mio lavoro, per la quale avere un po' di sfortuna qua e là mi ha aiutato a costruirmi il lavoro che volevo, è che grazie alle tecnologie che ci sono adesso c'è molto bisogno di metodi analitici e computazionali per progredire in biotecnologia o in medicina. E quindi il mio laboratorio è perfettamente diviso in persone che si occupano di aspetti computazionali, quindi e algoritmi, e persone che fanno esperimenti. E sono, dopo un lavoro abbastanza lungo, sono molto ben integrati e devo dire che la cosa più bella per me oggi, oltre a ogni tanto avere un buon risultato, perché buoni risultati ci sono una volta ogni X mesi, è vederli come si comportano, vederli come interagiscono, pensare a come cresceranno, dove andranno, a cosa faranno, vedere la diversità, ogni tipo di diversità. E questa è la parte più bella. Il laboratorio si chiama Oncologia Computazionale Funzionale, quindi ci sono i due aspetti. Fondamentalmente da dati dati clinici o dati biologici, come per esempio trovare le differenze che stanno, o trovare i motivi che stanno dietro alle differenze morfologiche di queste cellule a destra e a sinistra, passiamo per lo studio della genomica, quindi sequenziamento, cose super high tech, diciamo, e poi costruiamo quelle che sono delle mappe. Quindi prendiamo una mappa che per me è questa, vuota. Questa è una mappa genomica, ci sono tutti i cromosomi, vari livelli di informazione, e la riempiamo in maniera più furba possibile con quello che osserviamo dal DNA o dall'RNA che estraiamo dalle cellule. Ci sono terabyte di dati dietro queste immagini, quindi c'è tanta ottimizzazione anche di computazione, di tempo macchina, di spazio macchina. Per darvi un'idea di quanto le componenti si integrino anche a livello economico o comunque si bilancino, la parte informatica costa tanto quanto la parte sperimentale, la parte di sequenziamento, perché avere centinaia di terabyte di spazio disco dove salvare i nostri file è estremamente costoso. E poi vuole anche dire che ci vogliono competenze miste, quindi sempre in ambito scientifico, però informatica, matematica, ci sono fisici che passano per il laboratorio e vanno, io che sono restata, però insomma, ormai non sono neanche più un fisico, medici, oncologi. E alla fine quello che vogliamo fare è praticamente studiare la resistenza alle malattie. Qui ci sono due percorsi diversi, quello a sinistra dove si vede che c'è già indice di quelle che saranno le cellule resistenti a un farmaco prima che il farmaco venga dato, mentre a destra ci sono esempi di cellule che diventano resistenti sotto la pressione del farmaco. E tutto questo per noi si traduce ovviamente in numeri, quindi in quantità di dati che studiamo. E io sono arrivata qui un po' per caso, un po' per passione, anzi tanto per passione, un po' per fortuna, un po' per sfortuna, perché varie volte nella mia vita professionale avrei voluto fare una cosa e per qualche motivo non ho potuto farla, o comunque non era il momento giusto. Oppure sono stata illuminata da qualcosa che mi appassionava di più e ho deciso di investire, e quindi un po' a zig zag ora faccio questo lavoro. Quindi, come diceva prima Valeria, ho studiato, vi dico queste cose perché fanno parte della relazione di oggi ovviamente, ho studiato fisica, poi ho lavorato in un gruppo di ricerca di biofisica, ho fatto poi un dottorato in informatica perché mi sono accorta che mi mancavano dei pezzi da poter utilizzare, e poi ho avuto una fortuna strepitosa di voler cambiare ambiente di ricerca, e ho capito che era il momento di andare all'estero. E torno a quello che diceva Elisa, perché volevo imparare tanto e volevo andare avanti e fare esperienze nuove all'interno del mio lavoro. Ed è stato una delle cose più belle che abbia mai fatto, perché ti esponi, perché continui a imparare, perché vedi gente che ha anche stereotipi diversi dai nostri. Ci sono molti stereotipi, ma non sono i nostri stessi, per cui ci dà un vantaggio riconoscerli, cambiarli, cambiare quelli che poi ci sono qua. Ti dà un giro di vite praticamente, e di vita. E quindi sono stata molto fortunata, però in tutto questo mi sono presa tante mazzate in faccia, ovviamente, come tutti, uomini e donne. E pensavo in questi giorni quali sono le cose che mi hanno più punto nel mio percorso, che mi hanno fatto male riguardo al mio lavoro, e sono tutti i commenti che ho ricevuto da persone, spesso donne, che neanche si accorgevano di dire cose che facevano male. E sono proprio stereotipi che ci sono, tipo: io non ho figli purtroppo, e quando avevo 30 anni volevo molto avere dei figli e già facevo questo lavoro, le persone dicevano: vabbè, ovviamente pensi solo alla tua carriera e quindi hai scelto di far così. E io stavo zitta, però mi faceva male. A un mio collega maschio non avrebbero mai detto una cosa del genere. E sono cose che sembrano sciocche, però fanno effetto. E come questa tante altre, un po' sullo stile, un po' invece persone che dicono: ah, vi presento, peraltro di solito vi presento Francesca e il professor Pinco Palla, vi presento Francesca e vi assicuro che oltre a essere bella è anche brava. What? Esatto. E tu resti così, sorridi, perché per educazione io sorrido e sono gentile. Però ti fa pensare, mai lo direbbero presentando una persona che ha appena fatto una relazione scientifica. E tutte queste cose sono dette da uomini e da donne in maniera indistinta, in maniera più o meno cosciente, e secondo me sono le cose sulle quali bisogna intervenire nell'educazione, cioè da piccoli, quando siamo tutti piccoli, per arrivare a riempire il gap. Quindi ben venga le quote rosa allora per accelerare, perché in effetti è vero, ci aiutano ad accelerare, per creare modelli, diciamo. Però è proprio nell'educare in casa e nell'educare gli insegnanti che secondo me c'è la chiave, perché poi le cose cambino per arrivare a un plateau e poi si va avanti senza quote rosa. Qui ho messo le parole chiave, sono fuori orario. Ma di poco? No, l'orologio fermo. Parole chiave, alcune di queste. Anche te. Perfetto. A posto, sì, siamo in tempo. E sono cose che abbiamo già accennato, sono alcune cose che hanno fatto la differenza per me. Quando ho deciso di fare fisica dal classico è stato perché sono buoni insegnanti. No. Ho avuto un... ho fatto fisica. Ah, lei, scusi, ho capito, io ho avuto un buon insegnante. Un buon insegnante, ma proprio gli ultimi anni, meglio gli anni. Quando facevo fisica, io non ho avuto un buon insegnante, però ho avuto un buon insegnante alle medie. Ho avuto un insegnante alle medie di educazione tecnica che secondo me mi ha cambiato la vita. Sì. Agli Archimede ci hanno diviso in due gruppi. Non mi ricordo se ci hanno fatto scegliere oppure no, e io sono finita con un professore che ci ha insegnato i circuiti elettrici. È stato bellissimo. Ho pensato: ma guarda, cioè due formule, track e track, e si capisce, insomma, ovviamente a livello superficiale, come funziona un circuito elettrico. Ci ha insegnato il funzionamento di un frigorifero. E la cosa bella, secondo me, me ne accorgo adesso non allora, è che è stato l'unico professore che ho avuto dal quale non ho sentito nessuna differenza tra maschi e femmine, zero. Io ero una delle 10 o 15 persone nell'aula a fare questi due esperimenti, è stato bellissimo. Quindi ha ragione, gli insegnanti hanno avuto un'influenza anche sulla mia discelta, però sì, ero un insegnante delle medie. Poi modelli, avevo una cugina che è più grande di me di 10 anni, che studiava chimica, si è laureata e ha preso un lavoro in un centro di ricerca, che allora era un centro di ricerca Fiat, e io la guardavo e pensavo, però... E ti restano queste cose, cioè avere modelli di persone che ti piacciono intorno, che sono anche persone con le quali hai rapporti di amicizia, di famiglia, di qualunque cosa, di interazione, sono davvero fondamentali. Però è drammatico doversi ricordare un insegnante in un percorso scolastico, accademico, l'unico insegnante, o comunque ricordarlo come un'eccezione, uno che... si relaziona con i bambini e le bambine sullo stesso piano, quindi i bimbi poi lo notano, le bambine lo notano, quindi notiamo soprattutto quello che non... Ma me lo ricordo così, chiaro. La professoressa di italiano chiaramente si comportava diversamente, ma trattava meglio le femmine e io ero scioccata e dicevo, ma cos'è questa cosa? E insomma, ognuno impara. E senti, posso farti una domanda? Sì. Siccome di questi studenti all'estero, fuga di cervelli, riconoscimento economico migliore, ambiente migliore, si legge tanto, perché sei tornata? Ah, sono tornata per motivi sentimentali. Ah, ok. Sono tornata per motivi sentimentali, in congiunzione però, se no avrei trovato un'altra soluzione. E alla fondazione del Dipartimento di Biotecnologia all'Università di Trento, per cui ho pensato che era un buon momento per provare a tornare, potevo mettere una insieme le cose. Con un ambito che comunque ti corrispondeva. Sì, esattamente, che corrispondeva a quello che nel frattempo facevo da 7-8 anni negli Stati Uniti. E non mi sono pentita. Beh, ecco, questo volevamo sentire. Trento è un buon ambiente di per sé, come sì, l'ambiente molto. Lavorativo. Sì, sì. L'ambiente lavorativo è molto buono. Ah. Il dipartimento in particolare è un dipartimento giovane con... senza diciamo i retaggi, sì. Quelli brutti diciamo che si sanno, che ci sono in tante università italiane, per cui si lavora bene. Io sono molto allergica alle persone che si lamentano e in Italia, quindi anche nel mio dipartimento, come in tutti i corridoi dell'università dove io giro, sento lamentele di ogni genere e questo devo dire che è un male. Questa è una cosa che proprio mi urta proprio tanto. È un costume italico. È un costume lamentarsi, è un costume lamentarsi, donne e uomini ugualmente, e bisogna tenere la testa bassa e lavorare. Bene. Bene a continuare ad occuparci e a preoccuparci per queste quote STEM o che si voglia, e soprattutto dobbiamo continuare a chiederci perché non osiamo chiedere. Questo ecco. Perché non osiamo chiedere. E ci lavoreremo. Educare figli maschi e femmine nello stesso modo. Le mamme hanno un ruolo, una responsabilità, certo. Grazie. Grazie a te. Grazie.